Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Martedì 8 dicembre, ciao a tutti e a tutti, ore 20:03, comincia una nuova puntata di Notte Costa Città. Giornata oggi particolarmente buia e uggiosa, caro il mio Fabio, buonasera Fabio. Buonasera Ale, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, molto uggiosa. Molto uggiosa, molto uggiosa. Giornata anche di festa oggi. Certo, oggi festeggiamo l'Immacolata Concezione. Immacolata. Mi sorprende. Capaletta. Vabbè, e quindi noi come la festeggiamo questa Immacolata, caro Fabio? No, noi l'Immacolata non la festeggiamo, non ci interessa un granché, però sempre dal calendario abbiamo preso spunto. Tra pochi giorni, tra 5 giorni, il 13 dicembre, è Santa Lucia. Santa Lucia per tradizione, anche se non è proprio così dal punto di vista, diciamo, scientifico, è il giorno più corto dell'anno, e quindi abbiamo pensato di utilizzare questa circostanza, diciamo così, per dedicare una puntata al buio, celebrare il buio in una puntata, e il buio che, come vi accorgerete, è spesso e volentieri un buio di natura, diciamo, metaforica, ma questo non ci impedirà, speriamo, di fare una bella puntata. Ale, se sei d'accordo cominciamo. Vai, subito. Dai, è forte. Allora, il buio in cui apriamo questa puntata è quello cantato dalla band italiana hardcore più importante degli ultimi 20 anni, sono i milanesi Fine Before You Came. La canzone Buio, questo è proprio il titolo della canzone, come l'intero album da cui è tratta, il loro primo album italiano Sfortuna, uscito nel 1999 per la Tempesta Dischi, e è incentrata su un amore finito, sulla sensazione di aver perso una ragione di vita, sulla impossibilità di accettare una situazione così, diciamo, destabilizzante. Ecco, nonostante fosse facile cadere nel baratro della banalità, visto il tema affrontato, i Fine Before You Came compiono un piccolo miracolo affrontando il tema con grandissima ispirazione, rara in una band italiana. La possiamo accostare in questo a band del calibro dei After Hours, Marilyn Gunze e Massimo Volume. Non aver paura del buio, meglio non vedere che cercare in vano e non trovare. Questo è il verso che apre la canzone. Loro sono i Fine Before You Came, questa è Buio. Fine, Before You Came, con questo pezzo buio abbiamo aperto la nostra puntata appunto dedicata al buio, buio che vedremo, come ci ha anticipato Fabio, in diverse sfumature, quella più semplice, quella più ovvia, ovvero legato a un momento della giornata in cui effettivamente il sole va via, e poi anche come il buio viene, è diciamo trattato un po' nel mondo della musica, ma direi anche dell'arte in generale, può rappresentare un po' diciamo uno stato d'animo in cui gli artisti vivono insomma alcuni dei momenti della loro vita, oppure anche dell'esistenza in generale. E proprio su questa riflessione nasce una canzone di Massimo Volume, si chiama L'ultima notte del mondo. In pratica nella canzone succede questo: dice, stanotte la Terra ha fatto uno strano giro, così è uscita dall'orbita e si è messa tra due soli che da domani la illumineranno tutta, dall'equatore ai poli, e quindi oggi è l'ultima notte del mondo e da domani che ci sarà sempre luce. Succede poi che un gruppo di artisti, questo immaginano i Massimo Volume, si incontrano per cercare di evitare e tutto questo, artisti, musicisti, scrittori, poeti, anche appartenenti a diverse epoche, che si incontrano perché dicono: e quale sarebbe il pericolo? Che senza il buio e il male il mondo non sarebbe più lo stesso, tutto diventerà fatuo e carino. La riflessione che fa Emilio Clementi, che insomma con piacere condividiamo, è quella, lui dice: credo che un mondo completamente pacificato, un mondo allegro che tutti forse speriamo possa un giorno arrivare, avrebbe come controaltare la fine dell'arte. L'arte si ciba di conflitti e contraddizioni, se essi cessano credo diventerebbe un po' decorativa, sarebbe un po' il paradiso di Dante. Non voglio essere un irresponsabile, lo capisco che la tensione verso un mondo migliore, però forse la sua realizzazione ci porterebbe a dover fare i conti con la perdita della bellezza e della creatività. I personaggi della canzone se ne rendono conto e cercano appunto di proteggere il mondo da questo, in qualche modo. Noi ce l'ascoltiamo, si chiama L'ultima notte del mondo, è contenuta nel Il Nuotatore, album dello scorso anno, del febbraio del 2019, Massimo Volume. Ecco Novalis, se c'è pure Basinski, vestito di rosa, tutto sorrisi. Bella Lugosi lo squadra, gli nega il saluto. Piuttosto che sorbirmi 7 ore dei suoi nastri, confessa, sono pronto a fare a meno del buio. Bene al piano, prende Elro in disparte, si sente a disagio, la gente lì dentro dice non gli piace. Sono venuto solo per senso del dovere, ammette sincero, a eseguire i notturni in modo che il cielo la notte torni nero. Stanotte la Terra ha fatto uno strano giro, aveva freddo, si è fatta commuovere dal pianto dirotto di un bambino. Così è uscita dall'orbita e si è messa tra due soli che da domani la illumineranno tutta, dall'equatore ai poli. La notte sarà sempre giorno, realizza Fommaso stordito, versandosi un flacone d'arsenico nel vino. Vedo già la luce tra le pieghe del mio cervello, è una sensazione strana, il peccato di colpo m'annoia, peggio dei movimenti in borsa o delle grigliate all'aperto. molto molto bella questa riflessione del buon Emidio. Poi in realtà il ghostwriter sono io. Ah sì? Sì sì, Emidio mi chiede sempre per scrivere qualcosa. Sì, sul buio. Chi gli ha scritto? La lista della spesa? Sì. Vabbè, restiamo in Italia, dopo i Fan Before UK, i massimi volumi, il turno di un'altra band che con il buio ha parecchia parecchia dimestichezza, loro sono i Marlene Kunz. Ed è stato proprio il buio, l'oscurità, a dare nutrimento e fondamenta al loro ultimo grande disco, e Uccido Paranoia, nel 1999. Poi arriverà Che Cosa Vedi, arriverà la collaborazione con Skin, arriveranno i progetti solisti del loro cantante e chitarrista Cristiano Godano, arriverà insomma il grande successo, e i Marlene Kunz non saranno più gli stessi, almeno per quanto ci riguarda. Uccido Paranoia è un album dal tono dimesso, quasi, quasi esasperato, è davvero un album buio, decisamente buio, dalla prima all'ultima canzone. Il brano manifesto del disco, un brano che nel tempo si è affermato come uno dei più belli e più poetici della loro intera carriera, è ineluttabile. In questa canzone il buio è un peso, un imbroglio, brucia come il fuoco. Nel buio, canta Godano, non c'è pace latente da cogliere. Loro sono i Marlene Kunz, questa è Ineluttabile. Profilar ineluttabile Marlene Kunz in questa puntata dedicata al buio. Tu, Fabio, come stai messo con il tuo rapporto col buio da bambino? C'avevi paura? No. Ma hai avuto paura del buio? No, non c'è questo ricordo. Cimitero di notte al buio? No, magari c'ho avuto paura del buio dopo i primissimi horror, così, però nulla di particolare. Niente particolare. Cimitero di notte al buio? Anche perché non abitavo, non sono nato in un podere, insomma, con scale, stanze lontane. No, eravamo tutti foresta di notte? Io sempre. Mai? Foresta di notte, sì. Foresta di notte? Bosco di notte, sì. Non c'è avuto problemi, anche Robert Smith c'è andato. Beh, non stavo da solo. E invece Robert Smith stava da solo quando era bambino, e però a lui invece quindi l'esperienza, è da lì che poi, esatto, l'esperienza abbastanza segnato, come dire, segnato, e 40 anni fa in pratica che ci ha scritto una canzone proprio per un po' per buttare fuori tutto quello che aveva vissuto, i suoi ricordi e la sua paura anche che aveva provato da bambino. A Forest è il titolo della canzone, è contenuta su 70 Seconds, è appunto la storia di un uomo che cerca una donna in una foresta, ma è buio e purtroppo non riesce a trovarla. Con The Forest e con l'album 70 Seconds che la contiene si assiste anche al cambio di sound un po' più scuro, un po' più dark del gruppo di Robert Smith, The Cure. In parte lo si deve all'influenza dei gruppi come Siouxsie and the Banshees, come i Joy Division, e non a caso The Forest, quando veniva eseguita dal vivo, si concludeva con i Cure che la trasformavano in Lost Control. Ma molto anche del merito fu dato dall'apporto del tastierista Matthew Hartley, che però appena terminata la tournée di 70 Seconds lasciò in pratica dopo neanche un anno il gruppo per problemi proprio con Robert Smith. The Forest fu anche il primo videoclip dei Cure. E prima di ascoltarci io vi invito anche ad andarvi a cercare la versione che ne ha fatto Alvanoto, il grande artista di suoni e di opere audiovisive, che ha riproposto proprio la canzone dei Cure che tanto gli piace, e per 10 minuti in pratica vi porta e vi trascina all'interno di una foresta. Noi ce l'ascoltiamo a Forest, però quella versione dei Cure. Thank you. A Forest The Cure, non The Forest come ho erroneamente detto. E vabbè, sono stato preso tutto qui? Oscuro della forza, tutto qua. Ah, è tutto tuo. Dovessi dire chissà chi. No, solo questo. Lasciamo l'Inghilterra. Sbaglio, lo riconosco, no? Sono una persona semplice. Certo, questo ti fa onore. Lasciamo l'Inghilterra per andarcene a Boston, negli Stati Uniti. Boston, a Boston. Tutta ci andiamo a Boston, no? A che ho detto? Che la targa è AB, a Boston. Ah, 2B. 2B a Boston, vai. Boston perché? Perché era la città natia, insomma la città che ha dato i natali ai Morphine. I Morphine, per chi non li conoscesse, sono stati dai gruppi più belli, più originali, anche più sottovalutati di tutti gli anni 90. Innanzitutto è una formazione abbastanza inusuale, cioè fuori dal comune, un terzetto che nel pieno poi dell'esplosione grunge, appunto lungo tutti gli anni 90, un terzetto, sì, un trio. No, vabbè, c'hai ragione, un trio mi fa pensare un po' più al jazz, comunque un trio senza chitarre, e questa era già appunto una particolarità negli anni 90, era già una stranezza, formato da un basso a due corde, un sax baritono e una batteria. E loro si definivano il loro genere, quando gli veniva chiesto in interviste, come grunge implicito. Non so quanto giocavano, quanto c'era del vero, anche se poi la loro musica non ha molto molto a che fare con il grunge. Ascoltandoli si ha la sensazione di trovarsi, almeno questa è la mia sensazione, dentro un locale in un film noir in pieni anni 50. E comunque l'abbiamo scelti per questa puntata in cui celebriamo il buio in tutte le sue possibili sfumature. Perché? Perché loro sono proprio la colonna sonora ideale, perfetta per il buio e per una solitudine che non è solitudine necessariamente legata a uno stato d'animo nero, negativo, insomma. Quando Mark Sandman, l'autore, il cantante, il bassista del gruppo di Boston, morì di infarto a Palestrina il 3 luglio del 1999, mentre era sul palco, nessuno ovviamente lo aspettava, appunto morì di infarto, fu una morte abbastanza improvvisa, anche se dopo si scoprì che lui negava dei problemi e quindi un po', diciamo, forse la storia poteva essere diversa. Fu una perdita enorme, e come nessuno si aspettava una morte così improvvisa, e nessuno neanche si aspettava un disco postumo uscito poco dopo la morte di Sandman a inizio del 2000, soprattutto un disco postumo così bello. E raramente queste operazioni sono fortunate, in questo caso era un album praticamente fatto e finito, e quindi i due Morphine rimasti hanno dedicato tutto il loro amore per cercare di tirare fuori un disco degno della memoria di Sandman, e ci sono riusciti alla grande. E l'album The Night, è uscito sotto il titolo di The Night, è proprio il testamento di Mark Sandman, e la storia dei Morphine non poteva chiudersi che con un album così tetro e così notturno. La canzone che dà il titolo all'album è forse la loro canzone più bella, e una canzone che sarebbe potuta, non sfigurerebbe, diciamo così, nella discografia di un Leonard Cohen o di un Tom Waits. Quella che state per ascoltare è una versione differente della versione dell'album, è uscita in una antologia pubblicata nel decennale della morte di Sandman, e appunto nel 2009, e la raccolta si chiama At Your Service. Loro sono i Morphine, questa è The Night. Dark to see the landmarks, good luck charm. I hope you're waiting for me across your cup at the start. You're the nightlight, and your ass shines like a melon of a moon, and your eyes shine too, even in the afternoon. You're the bedtime story, the one that keeps the curtains closed. I hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. Morfin su Radio Onda Rossa, e che il buio non vi impedisca di venire in Via dei Volsci a prendere la vostra scarceranda. Hai sentito che aggancio che ho fatto? Vabbè, tenebre, buio, oscurità, questo è lo stato d'animo in cui sembra aver trovato conforto, almeno per un certo periodo, Polygyne Harvey, o almeno questo è quello che ci racconta nella canzone che ci stiamo per ascoltare, Dear Darkness, quasi una lettera in cui l'artista britannica ringrazia appunto l'oscurità per l'amicizia e per la protezione che le ha dato in passato. Allo stesso modo Polygyne chiede però che, dopo aver flirtato con lei, con l'oscurità, per tanto tempo, dopo averle anche offerto tutta se stessa, ora è il momento di ripagare. E così ora è il tuo turno, dice, è il tuo giorno per ripagarci, per ripagare me e colui che amo con i beni terreni che hai messo da parte, con tutte le cose che ci hai sottratto. Dear Darkness è contenuta all'interno di White Shark, album del 2007, ed un po', diciamo, il riassunto, questa canzone un po' il riassunto delle tematiche esposte in questo disco, ovvero quasi un sentirsi in colpa per gli anni felici che ha trascorso, che hanno preceduto il disco, quindi quasi un concept album in cui si affrontano appunto la solitudine, l'abbandono e l'angoscia. Lei è PJ Harvey e questa è la sua splendida Dear Darkness. Don't you Poi anche la copertina di questo disco, cioè il PJ Harvey seduta, vestita di bianco in una stanza buia con un faro che le illumina, molto bella la foto. Ma basta, così. Sei poetico oggi, incredibile. Boh, vabbè. Mi sembra descrivi le copertine addirittura. Sì, molto bella, mi ha colpito molto. Vabbè, io adesso c'ho un po' di timidezza dopo tanto ardore. Comunque lasciamo l'Inghilterra un'altra volta. Un'altra volta ce ne andiamo negli Stati Uniti. Il prossimo artista in scaletta col buio ha avuto grande confidenza, e mi verrebbe da dire troppa confidenza. Parliamo di Jason Molina, un cantautore straordinario che ha raggiunto una discreta popolarità, prima sotto il nome di Songs of Aya, poi con quello di Magnolia Electric Company. L'alcol, per questo parlavo del buio, te l'è portato via nel 2013, ancora prima di compiere 40 anni, dicevi, Ale? No, stavo di una stupidaggine. Invece te ne dico un'altra, già che ti sei interrotto da solo. Non sarà la prima descrizione, anzi non sarà l'ultima descrizione di una copertina, eh? Così, voglio spoilerartela così. Immagino, sapendo, però vabbè. Non stai più nella pelle. The Little Guy with the Big Voice, lo definiva così il suo collega Mark Kozelek, e Jason Molina era un piccolo uomo che produceva grandissime canzoni di una bellezza difficile da sopportare, perché appunto grande era il buio, questo è il motivo per cui poi l'abbiamo scelto, grande era il buio che doveva affrontare per poterla cogliere, a quel buio quelle canzoni ancora oggi, grazie alla loro bellezza straordinaria, continuano a resistere. La canzone che abbiamo scelto si chiama Dark Don't Hide It, cioè il buio non lo nasconde, è una canzone del Hide It. Tu grazie. Hai detto tipo Heidi. Bravo, c'hai ragione. La canzone del 2005, io provo un po' a essere serio, ho visto anche il tema, ma comunque vabbè, canzone del 2005, uscita a nome Magnolia Electric Company, e qui Molina non soltanto mostra tutta la sua vulnerabilità e tutto il suo coraggio nell'affrontare il buio, ma anche tutto il suo grande amore per Neil Young. La canzone sembra un tributo al cantautore canadese a cui abbiamo dedicato una puntata poche settimane fa. Quindi lui è Jason Molina e questa è Dark Don't Hide It. Hide it. At least the dark don't hide it. said you only wanted friends for long enough to get rid of them. You found the kind you knew would only kill you, so you surrounded yourself with them. Heaven needed some place to throw all the shit. Human hearts and pain should never be separate. They wouldn't tear themselves apart, both trying. Now death is gonna hold us up in the mirror. Say we're so much alike, we must be brothers. You see, I had a job to do, but people like you been doing it to one another. E noi la sfumiamo sugli applausi in maniera... E ci uniamo idealmente agli applausi. Esatto, anche. E ci uniamo agli applausi per subito prima di addentrarci proprio nel buio sempre più profondo, visto che stiamo andando verso la fine della nostra puntata, e lo facciamo con un altro artista che proprio utilizzando il nero, il buio, l'oscurità ci ha raccontato i lati più tenebrosi del lato dell'animo umano. Ovvero Will Oldham, che abbiamo deciso di ascoltarci in uno dei lavori firmati a nome Bonnie Prince Billy, nello specifico I See a Darkness. E vado a descriverti, Fabio, anche la cover di questo album. C'è, insomma, se lo prendete in mano già capite il disco dove vi porterà. L'album è completamente nero, poi al centro c'è una specie, che cos'è secondo te, un teschio, un sasso? Sembra un sasso, un teschio levigato come fosse una pietra, sì. Levigato come fosse una pietra, che rappresenta un volto umano. Poi all'interno, se aprite il libretto o se avete il vinile, c'è un foglio, magari è un bassorilievo, che ne so, non lo so. E ogni canzone, dai, medi dicevo, non usavo basso rilievo, è vero, si facevano i lavoretti come Creda, ti ricordi? Altro rilievo, basso rilievo, che tempo, prego. Vabbè, e niente, quindi anche le canzoni scritte sul libretto, ogni canzone è accompagnata da un disegno, diciamo, che ha a che fare con il testo, che è disegnato da Will Oldham stesso. E Easier Darkness è appunto un viaggio nel buio, nell'eterno, un viaggio introspettivo nella solitudine, ma anche nella depressione, come nel caso di Black, per esempio, che il disegno che l'accompagna è proprio di due pugili sul ring, come se fosse un avversario proprio da stendere e da sconfiggere. E poi la traccia che dà il titolo all'album, ovvero l'unica anche ad essere non accompagnata da nessuna illustrazione, ma il cui testo è semplicemente scritto su uno sfondo interamente nero con i caratteri bianchi. Il brano e il disco risalgono ormai al 1999, l'anno successivo anche Johnny Cash la reinterpretò, questa Easier Darkness, nel terzo capitolo delle sue American Series, Solitary Man, nel quale partecipò anche ai cori lo stesso Will Oldham. Noi però l'ascoltiamo nella versione originale, ovvero firmata da Bonnie Presbilli, Easier Darkness. This isn't all I see. that somehow you can save me from this darkness. E noi su questa Asia Darkness si parlava di quanto è difficile tornare. Sono veramente contento che parli tu dopo. È vero, infatti questa poteva essere insomma anche un'ottima chiusura per la nostra puntata, però. E ci sembra anche giusto cercare un po' di uscire quantomeno da questa oscurità, o almeno questo è il messaggio del prossimo artista, José González. Dice: quando l'oscurità è presente su tutta la linea, sui nostri errori, sulle nostre scelte, sulla nostra vita, se i problemi ci sovrastano e vediamo tutto buio, non lasciamo però che l'oscurità ci mangi. E José González, artista svedese di origini argentine, in bilico tra folk, tra electric pop, la traccia è tratta da questo splendido album del 2007, In Our Nature. Sono, dunque, ha fatto soltanto 3 album, se non sbaglio, dal 2003 a oggi. Lui è stato definito poi a un certo punto l'erede di Nick Drake. 3 album a tutti veramente di ottima fattura, l'ultimo risale ormai al 2015. Comunque ha sempre continuato anche un'attività dal vivo abbastanza, stavo dicendo abbastanza viva, come si dice, un'attività dal vivo abbastanza intensa. Abbastanza intensa, molto bravo. E a novembre, dall'alto, doveva venire a Roma anche a suonare, la data è stata annullata, come purtroppo tante altre date di tanti artisti in questo nefasto 2020. Noi ce l'ascoltiamo, José González, la canzone si chiama Down the Line, cambiamo un pochino atmosfera. González, Down the Line. Ci volevo. E un po' ci voleva, assolutamente. Noi infatti proprio con lui abbiamo deciso di avviarci al termine della nostra puntata. Ci sentiremo martedì prossimo, chissà se per l'ultima puntata dell'anno, lo sapremo noi tra qualche giorno. Abbia il coraggio di dire il motivo. No, non lo dico, se fosse così comunque che sarà però non ho capito come trovate i biglietti per le Bahamas. Tu non ti preoccupare, ho i miei ganci. Se fosse così ascolterete un po' di dischi che ci sono piaciuti in questa settimana, se così non fosse ascolterete altro. Oggi sei molto molto molto vero? Carico. È questa oscurità che mi crea, che mi dà energia. E noi vi salutiamo con una canzone che racconta allo stesso tempo il buio come perdita, ma anche il buio come rifugio. Ancora una volta a provocare il buio è una relazione che si spezza. Ho sempre sognato di amarti, non ho mai sognato di perderti. Nei miei sogni sono sempre forte. Così canta Jonathan Donahue, la voce dei newyorkesi Mercury Rev. La canzone si chiama The Dark is Rising. Anche musicalmente la canzone, e per questa poi l'abbiamo ritenuta adatta a chiudere questa puntata, musicalmente dicevo la canzone resta sospesa tra il dolore della perdita e il conforto del proprio mondo, dei propri sogni. È un continuo saliscendi emotivo, da una parte gli archi, i momenti epici, dall'altra le fragili note di un piano solo. La canzone è davvero magnifica, noi ci sentiamo martedì prossimo, Alessandro permettendo, loro sono i Mercury Rev. La canzone The Dark is Rising. Ciao. Thank you. words that flow.